Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, siamo ormai alle porte del Natale, un evento che da 2000 anni continua a ispirare artisti, scultori, pittori, e proprio di questo tema parla un libro che adesso vi presento, di Giovanni Sant'Ambrogio, che è un giornalista, è stato a lungo anche con il Sole 24 Ore. Il libro si intitola Lo stupore del Natale, pubblicato da Ancora, 166 pagine, 29,50 €. Il Natale, ci dice Sant'Ambrogio, non è mai uguale a se stesso e soprattutto è così reale che scuote fino a mobilitare tutti i sentimenti sorpresi e coinvolti dal risveglio alla vita, così scrive l'autore. E allora il Natale diventa un capolavoro esso stesso, che ha fatto poi da soggetto a tanti capolavori che qui fanno da contrappunto, con le belle illustrazioni che accompagnano il libro, alle riflessioni sui grandi momenti che segnano la Natività. E quindi abbiamo l'Annunciazione illustrata da Beato Angelico e da Lotto, la Natività da Gherardo delle Notti e dal Caravaggio, l'Annuncio ai pastori da Sano di Pietro e da Tintoretto, e infine l'Epifania con Dürer. Su questo nesso tra meraviglia teologica e bellezza artistica sentiamo adesso l'autore. Buonasera a Giovanni Sant'Ambrogio. Buonasera a te e buonasera a tutti. Giovanni, tu parli nel tuo libro del presepio come espressione della teologia della bellezza. Che cosa vuoi significare? Sì, parlo di teologia della bellezza e con questo intendo dire che il presepe è una manifestazione umana, è una presenza di persone attorno a un evento straordinario, la nascita di Cristo. E questa realtà, soprattutto quando viene dipinta, esprime una bellezza, dove per bellezza non intendo soltanto parlare di estetica, di quadri belli o di presepi costruiti bene, ma intendo dire che tutte le presenze, le statuine come possono essere i personaggi di un quadro, gli ambienti, le presenze naturalistiche e non del quadro, esprimono una bellezza che non è puramente estetica, ripeto, ma è una bellezza che affonda dentro il significato dell'evento storico che sta avvenendo, e i pittori questa bellezza la esprimono attraverso un linguaggio estetico che affonda dentro delle radici teologiche. E tu hai scelto, mi pare, 7 quadri. Consideriamo il primo di cui parli, l'Annunciazione del Lotto. Qua tu dici che Lotto, in questo quadro, dà espressione alla dimensione dello stupore umano e della ferialità contenuta nella chiamata a Cristo, cioè nel fatto che tutto è espresso in maniera molto domestica, molto feriale, molto comune. Ecco, qual è stata la linea di Lotto che ha voluto esprimere in questo quadro? Ecco, diciamo che il quadro è sempre un'opera aperta che esprime quello che vediamo, cioè la realtà che vediamo, ma dentro questa realtà esprime anche molti valori, esprime un mistero. Quindi ogni quadro chiede a chi lo guarda di compiere un percorso dentro le cose che vede e dentro i messaggi che vengono comunicati. Lotto sceglie di ambientare l'annuncio a Maria, quindi un momento cruciale per questa donna e un momento cruciale per la storia dell'uomo, perché si incarna Cristo, lo ambienta in una scena in un palazzo, quindi diversamente dalla rappresentazione solita della stalla o della mangiatoia. È un palazzo, è un palazzo rinascimentale, è un palazzo dove vediamo delle presenze del tempo. C'è un letto a baldacchino, troviamo sullo sfondo un giardino rigoglioso e molto bello, vediamo un inginocchiatoio, insomma una il casa, gatto, il famoso gatto. E poi vediamo questo gatto. Io lì parlo di questa meraviglia o di stupore, della sorpresa o della ferialità, perché innanzitutto come si è detto, questa annunciazione avviene in una casa del tempo, della storia che sta vivendo Lotto. E questo sta a significare teologicamente che la venuta di Cristo non è una venuta che è accaduta 2000 anni fa, che è accaduta in una stagione e poi non si ripete più, ma è una nascita che ti ripresenta nel tempo, è un messaggio che di rinascita e quindi di una contemporaneità di Cristo e quindi del messaggio cristiano che si traduce di stagione in stagione, di generazione in generazione. E quindi Lotto vuol far capire che Cristo è presente e che sta nascendo per le persone del suo tempo e quindi anziché scegliere il Betlemme, sceglie un palazzo del Rinascimento. E lo stupore di Lotto, che è una grande novità che entra nella pittura, Maria non la troviamo come nell'iconografia classica, inginocchiata, in silenzio, che guarda l'angelo, che sta meditando su quello che le è accaduto. Maria è rivolta verso lo spettatore, verso chi sta guardando il quadro, cioè volta le spalle all'angelo, infatti l'angelo si trova in una situazione un po' spiazzata, si rivolge verso di noi che stiamo guardando il quadro, aprendo le braccia, quasi comunicandoci in diretta che sta vivendo un turbamento, che le sta succedendo un fatto straordinario, ecco, quindi consegna a noi questo stupore questa anche umanità. Invece per l'Adorazione dei Pastori, accanto a un quadro di Tintoretto, hai scelto un'opera un po' rara, un'opera preziosa di Sano di Pietro, che però non fa parte dell'iconografia tradizionale. Come mai hai scelto questo quadro? Allora, ho scelto questo quadro perché Sano di Pietro è un pittore senese del 400 e dico del 400 e senese perché a Siena si sta vivendo in quel periodo un travaglio religioso soprattutto all'interno del francescanesimo. Si parla appunto di ritorno ai valori più veri del francescanesimo, quindi una maggiore povertà, eccetera. Ho scelto Sano di Pietro perché non sono molte le rappresentazioni dell'annuncio ai pastori in cui protagonisti siano i pastori e l'angelo. Solitamente l'annuncio ai pastori è tradotto come i pastori presenti e adoranti alla grotta davanti a Gesù, mentre invece il momento specifico che li coglie nella notte, come dice il Vangelo, lontani dalla nascita di Gesù, è poco rappresentato, per cui volevo proprio che emergesse e fosse chiaro questo aspetto. Perché? Perché in quell'annuncio c'è una dinamica tra angelo e pastori particolare, che potrebbe essere la dinamica, quella dinamica che accade nelle persone che vengono, come dire, colpite da un messaggio, trafitte dalla conversione. È un momento singolare, molto personale, spesso che avviene in momenti anche di solitudine o di silenzio, e Sano di Pietro crea molto bene questo clima e rende il messaggio molto chiaro. L'annuncio è un annuncio personale a te, è un annuncio personale a quei due pastori lì rappresentati, che saranno loro che poi risponderanno. Tu hai fatto il presepio? Io ho fatto e il presepio, sono un innamorato dei presepi. Ti sei ispirato a qualche opera, per qualche elemento? No, diciamo che io sono ripetitivo. Ogni anno quando faccio il presepe più o meno è sempre nella stessa collocazione, ha le stesse dimensioni, le statuine sono sempre le stesse. Ecco, la caratteristica è che ogni anno nell'ambiente naturale inserisco sempre elementi nuovi, ovvero non so, foglie, rami, oggetti che magari negli ultimi 2 mesi raccolgo dal giardino piuttosto che dal parco. Cerco di rendere, come dire, vivo un ambiente con l'introduzione appunto di fiori, piante, questo genere. Bene, grazie a Giovanni Sant'Ambrogio, complimenti per il suo presepio e ricordo che ha scritto Lo stupore del Natale. Buon Natale! Grazie, buon Natale a te e buon Natale a tutti. E sui Vangeli si esercita un grande scrittore, Pietro Citati, che ha scritto appunto I Vangeli, pubblicato da Mondadori, 154 pagine, 22 euro. Qui troviamo illustrati i momenti principali del Vangelo nella rilettura e nella riflessione di Pietro Citati, che così ci presenta per esempio il mistero del Natale. Qui Citati commenta, nelle righe che adesso ascolterete, il passo di Luca sulla Natività, nel quale l'Evangelista insiste sugli aspetti oggi più noti della Natività, a partire dalla mangiatoia nella quale venne deposto Gesù. Nel caso del bambino nella mangiatoia, nessuna luce si accende. Per quanto sia stato sottile il lavoro degli interpreti, non c'è luogo nell'Antico Testamento o leggenda ebraica o mito di altre religioni che costituisca il vero fondo memoriale del racconto di Luca. Il suo sfondo e il suo significato ci restano oscuri, come forse dovettero restare oscuri ai cristiani già 2 secoli dopo la nascita di Cristo. Questo segno così familiare alle fantasie cristiane, questa immagine che noi vediamo ripetuta in tutte le natività e in tutti i presepi, questa figura che vive profondamente nei nostri pensieri, anche quando crediamo di averla dimenticata, è un mistero. Ma c'è una possibilità di interpretazione. Quando l'angelo scende dal cielo, non offre ai pastori una prova o una dimostrazione della nascita del Messia. Il bambino nella mangiatoia non deve evocare nessun altro bambino dell'Antico Testamento che abbia il compito di confermare l'evento. Quello che l'angelo fa vedere ai pastori è qualcosa di assolutamente nuovo, qualcosa che non si era mai visto e letto e che egli propone, o meglio impone con una specie di violenza ai suoi ascoltatori. Questo segno non ha bisogno di una conferma antica. È esso stesso la conferma, l'annuncio di una nuovissima fede alla quale la luce e la gloria dei cieli offrono lo sfondo. Il bambino nella mangiatoia splende, illumina, crea una fede e dei fedeli. Come l'incarnazione e la croce è un grandioso paradosso. Dio, l'Altissimo, il Salvatore, l'Onnipotente, il Signore di Israele, dell'universo e del tempo, si nasconde nelle fasce di un neonato inerme. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Abbiamo parlato di Citati che si misurava con i Vangeli e allora vi presento un altro grande scrittore, questo irlandese, che invece si misura con i Salmi. L'autore è Clive Staple Lewis, noto ai più perché è l'autore delle Cronache di Narnia e lo scrittore vissuto tra il 1898 e il 1963, che nel 31, lui, ateo, si convertì al cristianesimo anglicano e da questa conversione nacque un periodo di riflessione di cui è una testimonianza appunto questo libro che si intitola I Salmi, tradotto e curato da Edoardo Rialti per Lindau, 174 pagine, 19 euro. Lewis ammette con umiltà la propria incompetenza, scrive di non essere un ebraista, né un biblista, né uno storico antico, né un archeologo, scrivo per gli ignoranti su cose che anch'io ignoro, ma offre una lettura incompetente, come la definisce lui stesso, ma fulminante sui Salmi, che egli considera come delle poesie pensate per essere cantate, non sono trattati dottrinali e nemmeno sermoni, ci dice. La lettura dei Salmi avviene per temi, e quindi dal giudizio alla morte, alla bellezza del Signore, alla natura, ai secondi significati. Per esempio, quei significati che anticipano il Natale nei Salmi. un significato che così Lewis interpreta nella lettura di quei salmi che si leggono in particolare nella chiesa anglicana durante i giorni di Natale. Per noi cristiani gentili è più probabile che si cominci dal carattere sacerdotale, sacrificale e intercessore di Cristo e si attenui quello del Re e del Conquistatore. Il Salmo 109, assieme agli altri tre salmi natalizi, corregge tutto questo. Nel 44 abbiamo ancora una volta il tono quasi minaccioso di «Cingi la spada al tuo fianco, o prode, vestiti della tua gloria e del tuo splendore». Le tue frecce sono acuminate. Nel Salmo 88 abbiamo le promesse fatte a Davide. I nemici cadranno ai suoi piedi. Davide chiamerà Dio padre e Dio dice «Farò di lui il mio primogenito», che è come dire «Farò di lui il mio figlio maggiore, il mio erede, darò a lui il mondo intero». Nel 131 troviamo Davide ancora una volta. «Coprirò di vergogna i suoi nemici, ma su di lui splenderà la corona». Questo enfatizza un aspetto della Natività a cui i nostri successivi sentimenti sul Natale, in sé eccellenti, non rendono piena giustizia. Per coloro che furono i primi a leggere questi salmi come poesie sulla nascita di Cristo, tale nascita significava anzitutto qualcosa di assai militante. L'eroe, il giudice o il campione, o l'ammazza giganti, colui che deve combattere e abbattere la morte, l'inferno e i demoni, è giunto al fine. E l'evidenza suggerisce che anche nostro Signore pensasse se stesso in questi termini. La poesia di Milton sulla Natività recupera bene questo aspetto del Natale. I vari aspetti del Natale, a partire dalla frenesia dei regali, vengono affrontati in una raccolta di racconti di vari autori italiani e stranieri, anche moderni. Il libro si intitola Il regalo più bello, storia di Natale, ed è curato da Francesca Cosi e Alessandra Repossi. È pubblicato da Einaudi, 252 pagine, 17 euro. Troviamo qua 23 racconti di autori famosi, da Deledda, Rigoni Stern, da Gozzano, Buzzati, dai fratelli Grimm, Maupassant e tanti altri, raggruppati intorno a alcuni filoni: il Natale da sogno, il Natale amaro, buon Natale, Natale in famiglia, strano Natale, Natale magico. Dunque troviamo qui non soltanto il clima dolce e sognante della tradizione natalizia, ma anche qualche sorpresa o semplicemente la sottolineatura che il Natale può essere ricordato o festeggiato in situazioni particolarmente difficili o addirittura scatenare il demonio proprio nella notte della vigilia. E apre questa raccolta una lettera di Babbo Natale scritta da Mark Twain da Palazzo di San Nicola sulla Luna la mattina di Natale, nella quale una bambina viene istruita su come ricevere il generoso vecchio. E a questo punto il confettino. E vi propongo un'altra raccolta di racconti di Natale, questa per ragazzi. Sono racconti di Mino Milani, Pier Domenico Baccalario, Roberto Piumini, Guido Sgardoli, Angela Nanetti, Alessandro Gatti, Beatrice Masini, Elisa Puricelli Guerra, illustrati da Gaia Stella per Einaudi Ragazzi, 234 pagine, 18 euro. Per gli ultimi acquisti vi segnalo un paio di bei libri. Uno di carattere fotografico è l'ultimo volume della serie dedicata alla storia della fotografia, che si intitola appunto La fotografia, curata da Walter Guadagnini e pubblicato da Schirà. E questo volume presenta lo sviluppo della fotografia nel periodo 1981-2013, cioè dall'avvento della prima fotocamera digitale, dei ritocchi, anche quelli più clamorosi, delle fotografie. Le più recenti innovazioni, dice Guadagnini, ci sembrano ormai banali, ma in realtà sono recentissime e hanno soprattutto radicalmente cambiato il nostro rapporto con l'immagine. E qui in questo volume di Schirà troviamo vari saggi sui grandi artisti e le tendenze degli ultimi 30 anni. E adesso passiamo a un libro di musica, si chiama The Beatles Lyrics di Hunter Davis, che è tra i maggiori studiosi del gruppo inglese, pubblicato da Mondadori, 366 pagine, 29 euro, ed è tradotto da Alessio Catania. Più passa il tempo, più i Beatles diventano grandi, esordisce nel libro Davis. E allora dice: è il momento di analizzare non soltanto le musiche, che sono state ormai sezionate da ogni angolatura, ma i testi. E questa operazione è particolarmente importante perché, scrive l'autore, il processo creativo è sempre affascinante, anche perché John Lennon e Paul McCartney, scrive sempre Davis, avevano davvero una disposizione letteraria. E qui troviamo la storia con molte illustrazioni di alcune fra le più celebri canzoni dei Beatles, di cui Davis ha spesso rintracciato la versione autografa. Sentite per esempio qualche nota di Strawberry Fields Forever. Let me take you down, 'cause I'm going to... Questa fu scritta da John Lennon e rappresenta, dice l'autore, una sintesi perfetta di tutti gli elementi della fase attraversata dai Beatles in quel momento: introspezione, disorientamento, insicurezza, il tutto presentato in una sontuosa, originale, stratificata e inquietante confezione musicale. Anche eliminare tutti gli ornamenti sonori, Strawberry Fields resta una canzone bellissima. Un libro che invece parla di arte è quello di un grande esperto, il cardinale Gianfranco Ravasi, che è il presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura e della Pontificia Commissione Archeologia Sacra. Ha appena pubblicato un libro che si intitola Le meraviglie dei Musei Vaticani, pubblicato da Mondadori, 300 pagine, 20 euro, e qui troviamo una descrizione dei tanti musei vaticani, un deposito sterminato di capolavori raccolti appunto in 10 musei e in complessi famosissimi come l'appartamento Borgia o le stanze di Raffaello o la Cappella Sistina. E qui troviamo nel libro tante illustrazioni con una guida per cogliere e per comprendere i maggiori capolavori che possiamo incontrare, capolavori che ci possono riservare sempre nuove sorprese. Per esempio il modo in cui la natività è stata interpretata dall'arte africana e cinese, come ci descrive Ravasi. Durante il viaggio in Kenya del 1980, a Giovanni Paolo II fu donata una statua in terracotta rossa di 60 cm raffigurante una Madonna Masai col bambino. I Masai sono una vivace popolazione africana dotata di un patrimonio artistico, culturale e folclorico autonomo. Vivono tra il Kenya e la Tanzania e in questa ceramica rosso lucido hanno assegnato i propri tratti somatici a Maria e al suo bambino. L'ocra e l'unguento che luccica al sole sono spalmati sul corpo perché il rosso, come il verde vegetale e il blu celeste, è un colore sacro e benaugurante. Anche i cinesi amano questa trasformazione di Maria e del piccolo Gesù, secondo i canoni della loro etnia e della loro arte. Ecco allora una delicata madre di Gesù cinese, immersa in un delizioso giardino orientale con un picco roccioso e splendide peonie, mentre ai piedi del bambino è in adorazione un angioletto. Questo grande dipinto su seta, alto 2 metri e largo una 70 centimetri, è opera di un pittore convertito al cattolicesimo, Giorgio Wang Suda, vissuto nell'Ottocento. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata, buon Natale e vi do appuntamento a domenica prossima.